Linee d'ombra di Matteo Caccia. Questo viaggiare lento mi ha lasciato una grande energia, ecco, una forza che mi sto ancora portando dietro. La mattina prendete la bicicletta per andare al lavoro o a scuola. Provate almeno una volta. Magari scoprirete che cos'è la libertà. Storie di modi per non svanire nel nulla e di persone scomparse, in una puntata che si intitola Scomparire. Gli dice che preferisce vedere la sua famiglia morta piuttosto che vivere un altro giorno dopo quanto è successo. Lascia libero l'ultimo ungherese. Aspetta che la moglie e i figli siano sottoterra, poi va a cercare il resto della banda. Uccide i loro figli, uccide le loro mogli, uccide i loro genitori e i loro amici. Brucia le case in cui vivono e i negozi in cui lavorano. Uccide perfino le persone che gli devono dei soldi. E come niente, sparisce. Un clandestino, nessuno l'ha più visto da allora. Diventa un mito, una storia del terrore che i criminali raccontano ai figli. Se non obbedisci a papà, Kaiser Sose ti porta via. Ma nessuno ci crede veramente. Questo è uno dei pezzi probabilmente più belli, narrativamente più belli, di quel film che si chiamava I soliti sospetti, in cui Kevin Spacey, che appunto ha questa faccia così dimessa, così anonima anche per certi versi. Io quando vidi questo film era la prima volta che lo vedevo sullo schermo, Kevin Spacey, di una bravura incredibile, soprattutto nel trasformare se stesso, trasformare il personaggio, quindi se stesso. E Kaiser Sose è un nome che ancora oggi risuona nelle persone della mia generazione, più o meno, quelli che hanno visto quel film al cinema e quelli che si ricordano questa roba in cui lui dice, questo pezzo in cui lui dice arriva, colpisce e in un attimo sparisce. Ecco, l'abbiamo scelta proprio per questo motivo, perché la puntata di oggi si intitola Scomparire, anche se non ha a che fare, ahimè, con un film, non ha a che fare con la fiction, quello che vi stiamo per raccontare. Anzi, la giornata di oggi è una giornata molto importante perché sono passati 37 anni, cioè l'età di un uomo ormai adulto, formato. Sono passati 37 anni dal 22 di giugno del 1983, che è un giorno che purtroppo verrà ricordato nella cronaca di questo paese come il giorno in cui scomparve una ragazza di cui non si seppe più nulla, in cui non si seppe più che fine avesse fatto. Si immagina ormai a distanza di 37 anni che quella ragazza non ci sia più, ormai sarebbe una donna. La ragazza di cui sto parlando è Emanuela Orlandi, è un caso che sicuramente avete sentito nominare, il suo nome sicuramente l'avete sentito nominare, anche se non ne conoscete bene la storia. Sono passati appunto 37 anni, era il 22 giugno dell'83 e noi oggi proviamo a raccontarvela di nuovo, quella storia, proviamo a ricostruirla. Per capire se, diciamo, per fornire degli elementi in più, non per capire, insomma, capire sarebbe difficile, ma provare a guardarci un pochettino meglio dentro, all'interno delle dinamiche di quella storia. Prima però partiamo come sempre da una storia vostra, dalla storia di un ascoltatore, che riguarda sì il tema dello scomparire, ma non dalla faccia della terra, ma vedere sparire la propria memoria, vedere lentamente i propri ricordi che se ne vanno e cercare di reagire a quella cosa. E la sua reazione, l'avete capito probabilmente anche dall'apertura di questa puntata, avviene attraverso un mezzo di trasporto semplicissimo, il più semplice che c'è, ed è la bicicletta. Continuiamo a raccontare storie qui a Linea d'Ombra, lo facciamo tutti i giorni, da lunedì al venerdì raccontiamo storie che hanno a che fare con un confine, con una linea che avete varcato o magari non ancora, una linea oltre la quale siete passati per sbaglio, per volontà, dopo pochi secondi o dopo anni di lavoro. Ecco, quella linea che può essere un confine piccolo, molto sottile o molto largo, invece rappresenta un pezzo della vostra vita che volete condividere. Quindi mandateci la linea d'ombra @radio24.it. Le storie, tutte le storie dicono, hanno a che fare con un viaggio. Ebbene, noi cerchiamo di raccontare proprio il pezzo centrale di quel viaggio, quella linea d'ombra. E la linea d'ombra del protagonista di oggi è sicuramente legata a una malattia. Legata a una malattia che si chiama Parkinson, ma la storia interessante che ci racconta il nostro protagonista di oggi, cioè Simone, ha a che fare con il varcare l'idea che la malattia possa essere semplicemente un problema. Lui dice, lo capirete precisamente dalle sue parole, nel racconto della sua storia, lui dice: io ho cominciato a stare meglio quando ho cominciato a accettare quella malattia. Insomma, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Mi chiamo Simone, ho 44 anni e faccio l'architetto. 14 anni fa, nella mia famiglia è arrivato il mio amico Parkinson. Nessuno l'aveva chiamato, ma piano piano si è insediato rivoluzionando completamente la mia vita. All'inizio ho fatto fatica, poi ho capito che la mia felicità cresceva in modo proporzionale alla mia accettazione della malattia. È questa la chiave di tutto. Non devo pensare a quello che sarà, ma a quello che posso fare adesso. Così riesco a conquistarmi la libertà di fare un sacco di cose. Una cosa che ho sempre avuto e continuo ad avere è la passione per la bicicletta. A 3 anni già pedalavo e, girando per i campi con mio papà, sognavo di viaggiare. Mi è sempre piaciuta questa immagine simbolica, una catena e 2 pedali. Una trasmissione che ti consente di percorrere una distanza illimitata con la sola forza delle gambe. Ma ritorniamo alla mia malattia. La maggior parte delle persone pensano Parkinson uguale tremore, ma quella è solo la punta dell'iceberg. In me la malattia si è manifestata con una rigidità nei movimenti, con la perdita dell'olfatto, apatia, depressione e difficoltà di scrittura. In aiuto ci sono i farmaci, la chirurgia e i medici, ma anche attività motorie come l'utilizzo della bici, ad esempio, camminare e una corretta alimentazione. Esperimenti hanno dimostrato una chiara correlazione fra attività fisica e regressione della malattia. Non si parla di guarigione, ma un miglioramento delle abilità motorie e intellettive che i farmaci per ora non riescono a dare. E questo lo posso confermare sulla mia pelle. 6 anni fa mi sono sottoposto a un intervento per installare uno stimolatore sottocutaneo. Questa operazione mi ha permesso di riprendere a pedalare con più convinzione e, sentendomi meglio, mi ha permesso di continuare il mio sogno, quello di fare un viaggio in bicicletta. Io avevo in mente di fare un viaggio da solo, nel senso, cioè, io e la mia bicicletta. Voleva essere quasi un'introspezione nel mio io, ecco. Poi però, vedendo le difficoltà che ci sono, ho pensato di contattare, così anche per caso proprio, sono venuto a contatto con Sergio Borroni, questo cicloturista che è a livello nazionale, ha girato più di 80 paesi e mi ha lanciato questa sfida, ecco, se volevo andare con lui. All'inizio mi avevo proposto l'Alaska, però non conosceva bene la mia situazione e quindi abbiamo dovuto un po' restringere il campo, ecco. Comincio guardando filmati di altri viaggiatori finché mi imbatto in quelli di Sergio Borroni. I suoi video, oltre a essere molto belli e coinvolgenti, mi fanno anche sorridere. Decido così di scrivergli e Sergio mi risponde. Nasce una corrispondenza in cui però non ho il coraggio di fare la domanda che mi fa poi lui. Tu sei in cerca di informazioni sui viaggi oppure cerchi un compagno di avventura? La seconda, gli dico. Decidiamo di partire. All'inizio però il progetto stenta a decollare. Ma durante una delle nostre conversazioni, Sergio mi racconta che ad un suo amico, 3 anni fa, è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer e che sarebbe stato un sogno anche per lui fare un viaggio in bici. E qui il progetto prende vita. Decidiamo per la Croazia. Sergio mi dà carta bianca. Posso decidere io l'itinerario. Comincio a studiare il percorso. Mi piacerebbe percorrere le isole del Quarnaro, ovvero Krk, Rab, Pag e Kerso. Comincio a comporre il puzzle dei traghetti, incastrando così i chilometri, i dislivelli e i pernottamenti. È stato più complicato di quello che pensassi, ma creare una realtà, partendo da un sogno, scioglie ogni nodo. Così, dopo qualche settimana, riesco a chiudere il cerchio. Saranno 376 chilometri e 7.400 metri di dislivello. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. E così si completa la compagnia. Oltre a Sergio, quindi, avrò come compagni Ralph, inseparabile compagno di avventura in bici di Sergio, e Pino, l'amico di Sergio, affetto dal morbo di Alzheimer. Qualche cosa di lui mi viene raccontata prima della partenza da Sergio, di come siano amici dai tempi del liceo e questa amicizia nata sui banchi di scuola si è rafforzata ancora di più dopo la comparsa della malattia. Alzheimer è una patologia sempre più diffusa. Purtroppo si pensa che la persona nel suo stesso essere vada via via sgretolandosi come un vaso di creta e che ad un certo punto non resti solo che un guscio vuoto. Molti studi hanno invece dimostrato che non è così, che la persona c'è e rimane fino all'ultimo stadio. Alle volte è difficile ritrovarla nelle pieghe della malattia, ma ci sono delle attività che apportano miglioramenti non da poco, e uno di questi è il movimento e quindi lo sport, la bici in particolare. Pino non è stato certo un chiacchierone, ma molto spesso erano i suoi occhi a parlare per lui. E comunque tutti noi cercavamo di cogliere i momenti in cui aveva bisogno di un supporto, perché per pedalare, pedalava, e come. Succedeva che durante le salite alcune volte si dimenticasse di cambiare il rapporto della bici. Allora, vedendolo in affanno, con molta tranquillità glielo suggerivamo, così lui agiva sulla leva del cambio. È anche accaduto che, dovendo ripartire dopo una sosta, non si ricordasse più quale fosse la sua bici, ma sapeva che una di quelle lo era. Questa era la cosa più importante. È bastato indicargliela perché ripartisse senza battere ciglio. Una sera, tornati esausti da una pedalata molto impegnativa, al momento di andare a dormire, l'abbiamo trovato disteso sul letto di una camera che non era la sua, e dopo uno sguardo interrogativo di gruppo ci ha detto: «Scusate, non mi ricordo qual è la mia camera». E quello «scusate» era la certezza che lui sapeva che qualcosa non andava e che aveva bisogno solo di una dritta, perché in fondo non aveva mica sbagliato, visto che per dormire ci vuole comunque un letto. L'ho sentito ancora anche l'altro giorno. È veramente un'amicizia che va oltre le mie aspettative, perché è sembra incredibile, ma gli chiede alla moglie se può chiamarmi, quindi gli sono rimasto nella sua memoria, anche se lui non si ricorda quello che ha fatto un'ora prima. Cioè, con lui puoi parlare solo del presente e un po' del futuro, ma per lui il passato non c'è. È stato un viaggio che mi ha insegnato molto sulla mia malattia, ma non solo, mi ha permesso pure di conoscerne un'altra. Ho visto in Pino cosa vuol dire vivere con l'Alzheimer e avere comunque il desiderio immenso di viaggiare, di divertirsi e di fare amicizia. Di vivere, insomma. Pino, una persona con le sue fragilità, certo, e con il suo bisogno in certe circostanze di essere supportato, perché la sua memoria in alcuni momenti vacillava. Questa esperienza deve avere lasciato emozioni forti anche in lui, perché un giorno, dopo che eravamo ritornati, ha preso il telefono in mano e mi ha chiamato, cosa rarissima a detta dell'amico Sergio. Si ricordava poco del viaggio, ma esisteva il presente e la nostra amicizia. E quindi vi do un consiglio. Domenica prendete la bicicletta, andate nel vostro posto preferito, quello che vi piace di più, magari con una persona che amate. Passate un bel pomeriggio, divertitevi, rilassatevi, godete di quel momento, perché poi il mercoledì successivo, quando sentirete lo stress della quotidianità, risulterà prezioso. Ricordarsi le sensazioni provate la domenica precedente aiutano ad affrontare con più leggerezza i problemi mentali che ci creiamo durante la settimana. Se potete, modificate il vostro stile di vita. La mattina prendete la bicicletta per andare al lavoro o a scuola, provate almeno una volta. Magari scoprirete che cos'è la libertà. Insomma, la puntata di oggi l'avete capito, è una puntata che racconta una storia particolare, la storia di Simone che un giorno decide di, come dice lui letteralmente nella sua storia, decide di far andare di pari passo la sua felicità con l'andamento e con l'accettazione della malattia. Lui dice: quando ho capito che questa cosa andavano insieme, la mia vita è cambiata. E da lì in avanti ha cominciato ad andare in bicicletta, ha cominciato a fare dei progetti. Simone è al telefono con noi e tra l'altro lo troviamo in bicicletta. Pronto? Ciao Simone, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Senti, dove ti trovi esattamente in bici in questo momento? Adesso sono lungo l'Alte Adria, a Grado, e proprio okay. Ieri ho conosciuto due persone che stanno facendo il giro del mondo in bici, sono passate per Udine e oggi ho deciso di accompagnarle fino a Grado. Ah, quindi sei con loro? Sì, sono partiti dalla Germania e stanno adesso passando per l'Italia e la loro prima meta sarà il Giappone, hanno detto. Senti, invece andiamo un po' sul tuo di viaggio, Simone, che ci hai raccontato, nel tuo racconto. Ci dici, io purtroppo tutta la parte di viaggio l'ho dovuta ripulire un pochettino perché il racconto era molto lungo. Ci racconti alla fine che giro avete fatto? Avete fatto le isole alte della Croazia, dico bene, quelle del Quarnaro. Esatto, siamo partiti da Fiume, siamo andati, abbiamo lasciato lì il pulmino e da lì siamo passati per l'isola di Kirk, l'isola di Rab, Pag e poi siamo risaliti per l'isola di Kerto e per poi ritornare a Fiume. Abbiamo percorso circa 400 km con 7000 metri di dislivello. Senti, quanti eravate alla fine? Voi tre, giusto? Oh. Eravamo in quattro. Io, Sergio Borroni, noto cicloturista italiano, e Pino, che è questa persona, amica di Sergio, ma è diventata grande amica mia adesso, era l'inseparabile compagno di viaggio di Sergio. Senti, visto che tu ci hai raccontato tanto di Pino nella tua storia, come sta Pino adesso? Pino sta bene. La cosa più bella è che si ricorda del nostro viaggio e mi chiede quando andare, quando possiamo ritornare in bici, perché da lui veramente non si può parlare del passato, ma solo del presente e del futuro. E a proposito di presente e di futuro, insomma, il presente che hai davanti a te è Grado, mi sembra di capire in questo momento. Esatto. Simone, ma parlando di futuro, invece hai in mente altri viaggi? Sì, sicuramente. Abbiamo dovuto un po' cambiare le rotte perché volevamo andare a fare la Rugby, che è dallo stato dell'Ohio allo stato del Massachusetts lungo il Mississippi, però a causa del lockdown abbiamo dovuto restringere un po' il campo e quindi ci fermeremo in Italia per quest'anno. Senti Simone, il tuo racconto, oltre che appunto essere una grande, come dire, di grande incoraggiamento per tutte le persone che sono affette da una patologia, devo dire non solo la tua, non solo il Parkinson, ma in generale di qualsiasi patologia, il tuo è davvero una storia e una volontà di ferro che ti fa capire che quando abbiamo una malattia non siamo solo la malattia, ma siamo molto altro e c'è anche la malattia che fa parte della nostra vita. E per questo te ne sono grato. Però vorrei parlarvi che altro della bici, perché è veramente un inno alla bicicletta la tua storia. Mi dici, in poche parole, che cos'ha la bicicletta che gli altri mezzi non hanno? Che non ha la motocicletta, ad esempio, che non ha il treno, l'automobile? Nel mio caso mi permette di essere come tutti gli altri, cioè mi fa muovere e trovare quell'equilibrio interno che altre cose no, cioè mi ti annullano la gravità e quindi mi sembra di essere nello spazio quando sono sulla bicicletta. Simone, senti, allora io ti lascio tornare sulla bicicletta, ma ti ringrazio davvero tanto per la storia che ci hai mandato e per la chiacchiera che abbiamo fatto insieme. Buon proseguimento verso Grado. Grazie a voi e saluti a tutti. Assolutamente. Ciao Simone, a presto. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie mille a Simone e alla sua bellissima storia, che spero sia d'aiuto, possa essere d'aiuto a persone che hanno magari una patologia, non per forza il Parkinson, non per forza l'Alzheimer, magari qualcosa anche di meno grave, che incide meno sulla salute, sulla memoria o sul nostro corpo, e che però hanno a cui magari è venuta voglia, magari proprio quest'estate, di prendere la bicicletta, cosa che non facevano magari da quando erano ragazzini, perché secondo me tutti quanti abbiamo in mente che cosa significa quando da ragazzini abbiamo due ruote e dei pedali sotto il sedere, la sensazione di poter andare magari non dall'altra parte del mondo, ma anche solo nel paese accanto o nel quartiere vicino della nostra città e poter girare, quella sensazione di libertà, chi lo sa che non la si possa esperire di nuovo anche da adulti. Quindi grazie a Simone per la storia e grazie anche per il consiglio. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. Oggi è il 22 di giugno del 2020 e 37 anni fa spariva Emanuela Orlandi, una ragazzina di 15 anni che usciva di casa un giorno per andare a scuola e a casa non ci sarebbe mai più tornata. La storia di quella sparizione è una storia di intrighi di palazzo, di indagini e di depistaggi, una storia mai veramente risolta, nemmeno oggi. Su Vice, qualche mese fa, ne hanno fatto un riassunto preciso e molto dettagliato, l'ha fatto Claudia Torrisi, e oggi, nel 37esimo anniversario, noi vi raccontiamo quella storia. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Quando Emanuela scompare sono da poco passate le 19 del 22 di giugno di 36 anni fa. Secondo quanto ricostruito dalla famiglia, poco prima la ragazza telefona a casa e confida a una sorella che quel pomeriggio ha incontrato un uomo per strada che le ha proposto un lavoro come presentatrice di cosmetici Avon. Le ultime due persone a vedere Emanuela Orlandi sono invece due sue compagne della scuola di musica Tommaso Ludovico da Victoria, al centro di Roma, che raccontano di averla lasciata dopo la lezione di flauto alla fermata dell'autobus di Corso Rinascimento, vicino Palazzo Madama. Da quel momento in poi, di Emanuela non si sa più nulla. La storia dell'adescamento con la proposta di vendere cosmetici è una delle prime ipotesi nate sul caso. Il giorno successivo alla scomparsa, il vigile urbano Alfredo Sambuco e l'agente di polizia Bruno Bosco, entrambi in servizio davanti alla scuola di musica, dicono di aver notato, nel primo pomeriggio del 22 di giugno, una ragazza che poteva essere simile a Emanuela parlare con un uomo di circa 40 anni su una BMW verde vicino al Senato. Secondo i due, questo avrebbe mostrato alla ragazza una borsa con scritto Avon con dei cosmetici. I due uomini erano stati trovati da parenti di Emanuela, che erano andati a fare un sopralluogo in Corso Rinascimento e si erano rivolti al personale di guardia di Palazzo Madama. Le testimonianze del vigile e del poliziotto vengono ritenute subito assolutamente attendibili dalla famiglia, nonostante presentino diverse inconsistenze, per dirne una, come avevano fatto a vedere la scritta Avon sulla borsa dall'altro lato della strada. Tanto che, interrogati dal magistrato nel 1985, Bosco parla semplicemente di una A su un borsone, mentre Sambuco nega di aver visto scritte o campioncini di ogni tipo. Nel 2002 quest'ultimo dice esplicitamente che i primi a nominare la Avon erano stati i parenti di Emanuela, non lui né il poliziotto. L'avere spinto su questa ipotesi è, secondo l'autore di quel pezzo, Nicotri, la causa prima del deragliamento dell'inchiesta. A ogni modo, la scomparsa di Emanuela Orlandi comincia a diventare di dominio pubblico il 25 di giugno, quando la famiglia fa pubblicare sul Messaggero e su Paese Sera un appello con la foto della ragazza e il numero di telefono di casa. È il momento in cui parte il cancan delle telefonate, comprese quelle di sciacalli o di mitomani, che saranno una costante nel caso Orlandi. Ma è il 3 di luglio che la scomparsa di Emanuela diventa una vicenda di impatto mediatico enorme. Al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, il Papa, Giovanni Paolo II, parla del caso Orlandi, esprimendo viva partecipazione alla famiglia e confidando, virgolette, nel senso di umanità di chi abbia responsabilità in questo caso, chiude le virgolette. L'uscita del Papa spiazza tutti quanti, anche la famiglia Orlandi. Del resto, per quale motivo il pontefice avrebbe dovuto nominare Emanuela a piazza San Pietro? La prima conseguenza, ricostruisce Nicotri, che è il principale giornalista che ha seguito questa storia, è che il SISDE, il servizio segreto interno, si interessa al caso. Giulio Gangi, collaboratore e amico della famiglia Orlandi, spiega al giornalista che al servizio segreto, fino al 3 di luglio, della sparizione di Emanuela non importavano accidenti, così dice lui. E infatti è in quel momento che il telefono della famiglia viene messo sotto controllo. La seconda conseguenza è che si apre la voragine della pista del rapimento politico internazionale. Obviously, you made me see. Can't take this life for nothing. Let me be. All alone. I left my throne. If I don't try another way, then I'll never know. So I don't care anymore. But you say no way. I don't care anymore. Oh, you do need me. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. I don't care anymore. But you say no way. I don't care anymore. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. That's calling your name. Il 5 luglio arriva così una prima telefonata alla segreteria di Stato Vaticana. Dall'altro lato della cornetta c'è una voce, ha un marcato accento straniero, in seguito gli verrà dato il nome dell'americano. Quella voce dice che Emanuela Orlandi è nelle sue mani e la libererà solo se entro il 20 di luglio verrà scarcerato Ali Açka, il militante del gruppo nazionalista turco dei Lupi Grigi, che nell'81 ha provato a uccidere Papa Giovanni Paolo II. Nel pomeriggio la stessa voce chiama anche a casa della famiglia Orlandi, dicendo di parlare per conto dei rapitori. Altre telefonate vengono poi fatte all'ANSA e a casa di compagne di classe di Emanuela. A distanza di una settimana dal primo, Papa Giovanni Paolo II fa un altro appello per Emanuela Orlandi, stavolta sottintendendo chiaramente che sia stata rapita. Ne farà in tutto 8, sempre più espliciti. Il Vaticano fa ancora di più per avallare l'ipotesi rapimento, annuncia una linea diretta per i rapitori con il segretario di Stato Vaticano. Si susseguono dunque telefonate, comunicati completamente sconnessi, dettati o recapitati alle sedi delle agenzie e ritrovamenti di scritti contraffatti attribuiti a Emanuela. Per evitare ulteriori casini, il sostituto procuratore titolare dell'inchiesta chiede alla stampa di non divulgare più niente. Poco dopo l'incarico viene affidato a un altro collega, noto per le inchieste sul terrorismo. Intanto la famiglia della ragazza continua a chiedere prove che sia viva, non ottenendo però nulla. La pista interna al Vaticano intanto si fa sempre più strada. Il SISDE fa infatti sapere ai magistrati di ritenere plausibile che la regia del sequestro sia da cercarsi nell'ordinamento ecclesiastico. Vengono inviate delle rogatorie in Vaticano, cui viene risposto negativamente o superficialmente. Secondo Pino Nicotri, il giornalista che appunto ha seguito a lungo il caso Orlandi, i media nazionali hanno le loro responsabilità. La messa in scena del rapimento politico, i depistaggi anche dei servizi segreti italiani e la gran cassa mediatica nazionale, dice, hanno reso impossibile la soluzione di un caso che sarebbe potuto essere molto più agevole. Il primo avvocato della famiglia Orlandi, Gennaro Egidio, tempo fa confidò proprio a Nicotri che i motivi della scomparsa di Emanuela potrebbero essere stati molto più banali di quello che si pensi. Il rapimento, il sequestro per essere scambiata con HK, ma no, gli ha detto. La verità è molto più semplice, anzi, ripeto, è banale, ma non per questo meno amara. Solo che forse quella verità non si saprà mai. E come in un infinito giallo estivo, continueremo ad andare dietro ai colpi di scena e alle rivelazioni e agli intrighi internazionali più assurdi e improbabili. Questa precisissima ricostruzione del caso di Emanuela Orlandi l'ha fatta Claudia Torrisi su Vice. Il pezzo si intitola Intrighi e depistaggi, il caso eternamente irrisolto della scomparsa di Emanuela Orlandi. Ora ascoltiamoci Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'ombra. L'Italia online e ci guadagni online. Sfatiamo questo mito, si guadagna con il sito. Aziende o negozianti, gli affari sono tanti. Italia online e ci guadagni online. Il tuo sito non era online, adesso hai Italia online. L'e-commerce era un tabù, ma se lo fai vendi di più. Yeah. Creiamo il tuo e-commerce, guadagni subito e paghi tra 3 mesi. Vai su italiaonline.it. Linee d'ombra. L'ultima parte di ogni puntata di Linee d'Ombra è dedicata a una storia seriale, una storia che Mauro Pescio raccoglie e racconta per tutti noi. Lo abbiamo fatto all'inizio con i 7 vizi capitali, abbiamo cementato questo nuovo programma che è nato a settembre, appunto, che raccontava storia di vizi capitali, e poi si è allargato a tutte le storie che hanno a che fare con una Linea d'Ombra. L'ultima che abbiamo lasciato la settimana scorsa è stata quella di Silvia Bencivelli. Oggi ne cominciamo una nuova. Cominciamo una storia seriale che ha bisogno di una presentazione piuttosto importante. Questa storia innanzitutto nasce grazie alla collaborazione di Linee d'Ombra con l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. Pieve Santo Stefano è un luogo che si trova in provincia di Arezzo, proprio nella Toscana aretina, e il diario, l'archivio dei diari di Pieve è invece un luogo che all'interno della città occupa uno spazio ben preciso. È un piccolo ufficio che poi ha costruito un piccolo museo dove da anni arrivano i diari degli italiani. Sono ormai oltre 30 anni che tutti gli italiani che trovano un diario, che decidono di scriverne uno, che decidono di condividere un diario magari di un parente, di un nonno, di un padre, lo spediscono all'archivio dei diari, che ormai ha oltre 8.000 diari di italiani, una sorta di luogo della memoria di questo paese. Ebbene, insieme all'archivio dei diari facciamo partire questa nuova storia seriale. È una storia seriale che davvero ha una linea d'ombra profondissima, è una linea d'ombra che riguarda un pezzo di questo paese che ormai è nel suo DNA, ahimè, perché è parte, forse la parte più cupa di questo paese. Sto parlando della mafia, sto parlando di quella parte di criminalità che non riguarda più solo le persone che sparano e le persone che uccidono altre persone, ma riguarda tutti noi, riguarda quella linfa cupa e maligna che scorre nella nostra economia, che scorre nella nostra edilizia, che scorre nella nostra, ahimè, nella nostra sanità. Insomma, quotidianamente si trovano e si leggono notizie di collusioni mafiose in ogni settore del vivere civile e del vivere sociale, oltre che politico, ahimè. Ecco, questa storia ci guida all'interno di quello che facciamo abitualmente, cioè di una storia personale. Una storia personale che è la storia della figlia di un uomo ucciso dalla mafia. Stiamo parlando di una storia accaduta poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, sempre in Sicilia, in un paese che si chiama Baucina. La protagonista di questa storia è una donna, si chiama Antonina Zotti. Antonina Zotti è figlia di Nicolò. Nicolò era un dirigente sindacalista che un giorno viene colpito da un colpo di pistola e la sua vita cessa. Antonina è giovanissima, ha 4 anni e, come ci racconterà, inizia a convivere con questa memoria, con la memoria di suo padre, e anche con il fatto che per molto tempo suo padre non viene riconosciuto come una vittima della mafia, ma viene, secondo quell'antica mentalità italiana o dei paesi in cui la mafia si nasconde e convive con i cittadini di quel paese, che viene definito un morto ammazzato, e c'è quindi una sorta di vergogna nell'avere a che fare con un morto ammazzato. È come un marchio che rimane su tutta la famiglia. Insomma, Antonina riuscirà a venire fuori, venire allo scoperto molto molto più tardi, e racconterà, consegnerà all'archivio dei diari questa storia nel 2001. Mauro Pescio l'ha contattata e oggi cominciamo a raccontarla. Noi ringraziamo Mauro, ovviamente, ringraziamo Antonina per questa confessione e per questo racconto. Io sono Antonina Azzotti, figlia di Nicolò Azzotti, un sindacalista ucciso negli anni 40 perché impegnato nell'attuazione dei decreti Gullo. Papà è lì che è stato ucciso, cioè a Baucina, dove era segretario della Camera del Lavoro, iscritto al Partito Comunista, appunto impegnato in quel movimento che nasceva in seguito ai decreti Gullo, che è il movimento contadino. È tanto importante fu per la Sicilia, ma anche per l'Europa, visto che è stato il secondo soltanto alla Comune di Parigi, penso un po'. Baucina allora era un paese di 2500 abitanti, a 30 km da Palermo. 30 km non sono una grande distanza oggi, ma a metà degli anni 40 le distanze non erano le stesse. Papà aveva 37 anni quando è avvenuta la sua esecuzione. È stato ucciso per il suo impegno nell'assegnazione della terra ai contadini. L'assegnazione delle terre prevedeva lo scorporo di una parte del feudo da assegnare ai contadini riuniti in cooperativa. Questo diceva la legge. Nella migliore delle ipotesi si sarebbe trattato di collettivizzare terre incolte e mal coltivate, praticamente delle pietraie. Non si trattava di terreni fertili. Tuttavia, questo suscitò la reazione degli agrari e dei mafiosi, che erano gli amministratori del feudo, che erano preoccupati non tanto per l'eventuale danno a livello economico, perché si trattava di terreni sterili, ma per il cambiamento di mentalità nella classe contadina, che si sarebbe prospettato. Per i contadini invece rappresentava il lavoro, dunque la dignità, la libertà, l'emancipazione, perché erano una classe di lavoratori sottomessi, arretrati, schiavizzati, schiacciati dai debiti, dalle tasse, senza nessuna possibilità di cambiare quella realtà. Nessuno allora tra i contadini aveva il coraggio di pretendere quanto per legge gli spettava. Da sempre il contadino siciliano, davvero servo della gleba, era abituato a stare davanti al gabellotto, l'affittuario del latifondo, con gli occhi bassi, la schiena piegata. Pretendere alla lettera l'applicazione della legge e stravolgere i poteri consolidati rappresentavano una vera e propria rivoluzione sia di potere sia di cultura. La legge Gullo, che concedeva ai contadini riuniti in cooperative le terre, significava la fine del ruolo mafioso di Cosa Nostra, e questo non doveva accadere. In tutta la Sicilia sono caduti 39 dirigenti sindacali, ognuno dei quali rappresenta una vicenda umana conclusa nel sangue. Nicola Azzotti fu uno dei primi a cadere. Non ricordo tutto quello che la mia vita che precede questo fatto, non lo ricordo perché ero una bambina spensierata, come tutti i bambini, una vita che trascorre così, nella gioia, insomma, penso che nessuno abbia ricordi che precedano i 4 anni e anche dopo, però io da quella notte ricordo assolutamente tutto. Io ho nella mia testa dei ricordi che sono rimasti impressi in maniera indelebile, anche perché ho cercato di richiamare anche inconsciamente tutti i ricordi che avevo di papà, dal momento che papà ci è stato strappato, è venuto meno. E siccome i miei ricordi erano pochini, erano più recenti, li ho fissati. E sono sempre 3-4 i miei ricordi, a cominciare proprio da quella notte, quando fui svegliata dalle grida strazianti di mia madre. Era il 21 di dicembre del 1946, mio papà aveva solo 37 anni. Vi ricordo che il diario di Antonina Zotti è stata vincitrice del premio Pieve del 2004, si intitola Oltre il buio con papà, è diventato anche un libro ovviamente pubblicato da Terre di Mezzo. Io ringrazio Antonina Zotti e ringrazio tutti quelli che fanno sì che questo programma sia possibile, cioè Mauro Pescio, Anita Panizza, Paolo Corleoni e Luca Micheli. Vi ricordo che potete trovare i brani che Luca sceglie per il nostro programma sul nostro sito, sulla nostra pagina, Linea d'Ombra, sul sito di Radio 24, oppure sui nostri social, soprattutto su Facebook, Linea d'Ombra, Radio 24, trovate tutto. Ora alle linee al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!